nostro comune e anche un saluto di carattere personale che lascerò all'ultimo del mio breve intervento. A me hanno insegnato una cosa da quando ero giovane: alle persone che non ci sono più non bisogna mai mentire, ma bisogna dire in queste occasioni ancora di più la verità, secondo me. Ovviamente verità assolute, ricordiamo una storica, non ne esistono. Diciamo come ognuno vede la verità, che è sempre opinabile. E appunto siamo in un ambito culturale e storico, questo vale ancora di più. Lei è stata, a mio avviso, una buona amministratrice. E restando al concetto di verità, io devo dire che il Museo del Presente c'era già ed era anche un luogo riconosciuto culturalmente e che ha anche avuto l'onore di ospitare mostre di valenza internazionale. Ricorderei i Longobardi del Sud, che avevano anche un sapore politico, perché un comune del Sud che celebra i Longobardi del Sud sull'Appennino calabrese si sono trovati anche sul Pollino resti dei Longobardi. Era una sfida, come dire, ai Longobardi attuali, che addirittura hanno tentato la secessione in questo paese, oppure capolavori d'arte di Calabria. La Petrusevic ha saputo potenziarlo, il Museo del Presente, anche in sintonia con Bilotti, con il dottor Bilotti, con delle collezioni molto pregiate. Le biblioteche c'erano quando lei è diventata amministratrice, ma ha saputo valorizzarle. Questo luogo, che è stato il luogo della protervia, ma anche dell'istituzione comune, è diventato museo. L'ha trovato la Petrusevic, ma anche in questo caso, insieme al dottor Bilotti, ne hanno fatto un centro di arte contemporanea e moderna di grandissimo pregio nel Mezzogiorno. Quindi, a mio avviso, è stata una buona amministratrice e personalmente, sotto questo profilo, ne ho un ottimo ricordo. E devo venire adesso all'aspetto di natura più personale. Ho visto Eva Catizzone presente, non so se sia in sala o sia fuori, ma quando io ho avuto l'avventura di essere sindaco di Rende insieme a Giacomo Mangini, Eva Catizzone e Franco Piperno erano al comune di Rende per discutere le questioni comuni almeno due volte alla settimana. Quindi con Franco ho avuto un ottimo rapporto tramite Giacomo, poi lui è stato sempre amico dei socialisti, è inutile ricordare vicende storiche che interessano direttamente il paese. Un ottimo rapporto personale, anche se non ho condiviso delle sue scelte nell'ultimo periodo. E anche con la Petrusevic ho avuto un buon rapporto. Durante la prima sua consigliatura ci sentivamo ogni tanto, mi chiedeva anche consigli e io mi sono permesso di dare anche qualche suggerimento. Poi abbiamo avuto uno screzio in una campagna elettorale. Come sapete, purtroppo la politica unisce, ma a volte spesso anche divide, e quindi per un paio d'anni non ci siamo molto sentito frequentati, però nell'ultimo periodo, in circostanze liete ma anche tristi, l'ultima volta, per ricordare Franco Rossi, ci siamo incontrati In questi incontri è ritornato quel rapporto amichevole, cordiale, anche di simpatia personale. Poi Marta era una persona molto solare, sorridente, molto gentile, e io mi porto dietro questo bel ricordo. Lei mi pare che non era credente. Il socialismo significa tolleranza, e io ho rispetto dei non credenti, degli atei, degli agnostici, anche degli epicurei, anche se Epicuro diceva che gli dèi esistevano, però non si interessavano degli uomini e delle cose del mondo, ma insomma era una forma elegante di ateismo, a mio avviso, perché se gli dèi esistono e non si interessano del mondo, è come se non esistessero. E quindi la voglio salutare rispettando le sue opinioni, il suo credo, ma se mi consentite, avendo rispetto anche del mio credo. E siccome io sono credente, la saluto con il sorriso e con simpatia, e la prego lassù di portare il mio saluto a coloro che lei ritiene il mio saluto possa far piacere. Grazie, ciao Marta. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sono qui oggi per esprimere al nome del magnifico rettore, professor Gianluigi Greco, il saluto e il commiato dell'intera comunità dell'Università della Calabria. Marta Petrusevic ha dato lustro alla nostra università col suo insegnamento di storia moderna, ma lo ha fatto con uno stile di pensiero tutto suo, di chi, seppur si nutriva nella polvere degli archivi, ha sempre rifuggito dalla pigrizia degli stereotipi che in essi si rifugiano. L'Università della Calabria saluta oggi una studiosa che ci ha insegnato il valore e il senso di sentirsi al Sud, di essere Sud. Senza compiacimenti accademici ci ha mostrato che il Sud, il nostro Sud, non è il mondo dell'arretratezza, dell'irrisolto, delle occasioni mancate. La sua ricerca e il suo rigore ci hanno mostrato il lato nascosto della storia del latifondismo meridionale e ci hanno fatto scoprire in esso le significative tracce di una modernità altra. Ci ha svegliato da quel torpore rassegnato a cui ci ha destinato tanta storiografia dedicata alla questione meridionale, che ha mantenuto la facile interpretazione di un luogo geografico e antropologico per forza sottosviluppato. Ci ha parlato di un mondo in cui la modernità non segue gli stereotipi dello sviluppo e dell'emulazione, goffa e impacciata. Ci ha fatto capire che la modernità altra si coglie con lo sguardo sgombro da pregiudizi, ma con il coraggio intellettuale e politico di riconoscere l'umano al di là delle categorie interpretative, consuete e per questo comode. Marta ha lavorato con straordinaria capacità critica alle assonanze fra le narrazioni delle periferie europee, l'Est e la Calabria. Ci ha fornito nuove e inedite chiavi di lettura che hanno mostrato ai suoi allievi e alle sue allieve come sia possibile costruire la propria dignità scientifica e culturale partendo dal riconoscimento delle proprie identità. Questa è stata la sua grande lezione, che non si è rivolta al lavoro sui meridionalismi con sguardo e strumenti locali, ma ha saputo intrecciarlo con la storia di tanti confini e di tanti margini differenti. E così, nelle varie prestigiose università statunitensi nelle quali ha insegnato, ha mostrato il significato del pensiero plurale. Questa è la sua eredità scientifica e politica, la sua postura morale, come ha scritto qualcuno in queste ore. Questo lascia Marta alla nostra Accademia. Grazie. Io vorrei rimanere nel mondo accademico, adesso chiamando un suo discepolo, Paolo Perri, a portare la sua testimonianza. Io vi chiedo scusa perché per me oggi essere qui, proprio in questo momento, è piuttosto difficile. Mi sono dovuto scrivere delle cose, questo la farebbe incazzare terribilmente. Però non ho altro modo. Io ho incontrato Marta la prima volta, grosso modo, 22 anni fa, proprio di questi tempi. Ero uno studente di storia al primo anno, ero arrogante, convinto, spocchioso, convinto che tutto fosse sempre bianco o nero. Marta teneva un corso sulla storia del nazionalismo, forse qualcuno qui in sala tra i suoi vecchi studenti se lo ricorda. Io mi ci approcciai ovviamente pieno di pregiudizi, una cosa che associavo all'imperialismo, a qualcosa che non mi interessava molto, devo confessare. Poi l'ho studiato per i successivi 15 anni. Mi sbagliavo, infatti. Marta ci prese per mano e ci condusse attraverso le comunità immaginate di Benedict Anderson, attraverso il modernismo di Ernest Gellner, attraverso il modello marxista ortodosso di Eric Hobsbawm, attraverso gli studi sull'economia, la società di Charles Tilly, storici, sociologi, politologi. Il 1848, la primavera dei popoli, che iniziava a Palermo, lei ci teneva a sottolineare questa cosa, che iniziava al sud. La nazione come costruzione, il ruolo degli intellettuali nella costruzione, il processo di costruzione delle identità nazionali, l'importanza del contesto storico, del contesto economico, il nazionalismo che allora ci appariva come un fenomeno più complesso, come una categoria discorsiva, come un'ideologia sottile. Le mie convinzioni, tutti i miei paraocchi furono spazzati via nell'arco di una manciata di lezioni, perché Marta era così, chiunque dei suoi ex studenti, dei suoi allievi ve lo potrà confermare. Marta batteva i confini reali, i confini scientifici, i confini disciplinari, i confini immaginati, ti costringeva a ragionare, ti costringeva alla critica, a considerare sempre la complessità dei fenomeni storici, dei fenomeni politici, anche delle questioni quotidiane, private. Non ha mai rifiutato il confronto con gli studenti, anzi, lo incoraggiava anche quando gli studenti erano dei grandissimi rompicoglioni, e vi assicuro che io lo ero. La sua attitudine di ricerca si è distinta sempre per l'attenzione alle strutture, alle diseguaglianze, alle strutture materiali, sociali della vita quotidiana, ai conflitti sociali, alla conflittualità, affrontati sempre con metodo comparativo, interdisciplinare. A Marta piaceva comparare l'incomparabile, come mi diceva e mi sfidava sempre a fare. L'interdisciplinarietà, appunto, per rafforzare l'analisi storica, che si trattasse del grande latifondo dei Barracco, oggetto ovviamente di uno dei suoi libri più noti, della questione meridionale, del rapporto tra centri e periferie, come diceva chi mi ha preceduto, ha mostrato sempre come le categorie della modernità, dello sviluppo, dell'arretratezza andavano interrogate costantemente da più punti di vista e sempre calati nei contesti sociali, nei contesti concreti. Non troverete una sola pagina banale scritta da Marta. Ha studiato il latifondo, il grande latifondo tra Crotone e L'Asila, e ha decostruito l'immagine di un sistema puramente arretrato, feudale, luogo privilegiato dell'immobilismo, dell'arretratezza delle campagne meridionali e delle genti meridionali, una sorta di irriducibile ostacolo a ogni sforzo di modernizzazione. Marta ci ha dimostrato che si trattava di un ambiente comunque mobile, vivo, complesso, appunto, ma molto più dinamico di quanto si pensasse, soprattutto a modo suo, alle prese con quella modernità che invece gli veniva negata da parte della storiografia e non solo. Lo stesso vale per i suoi studi sulla questione meridionale. Marta, insieme a Franco Piperno, Mario Alcaro, Franco Cassano, ha contribuito, questo è anche personalmente uno dei lasciti più importanti, a decostruire la cosiddetta questione meridionale. Pensate al ruolo giocato dagli esuli meridionali, frustrati dalle sconfitte, dai cosiddetti tradimenti della plebe dopo il 48, dopo il fallimento della spedizione di Pisacane. E quegli esuli meridionali che sono in esilio al nord, e lì loro stessi producono molti di quegli stereotipi che tradizionalmente associamo al meridione e ai meridionali. L'apatia, l'indifferenza, l'endemica rassegnazione dei meridionali. Scusatemi un attimo. Marta ha fatto di più, ha fatto molto di più. Ha posto la questione meridionale nella più generale dicotomia tra nord e sud globale. Ne ha ridisegnato i confini geografici, si diceva prima, nel rapporto anche tra l'est e l'ovest in Europa, questo grazie alle tesi del World System, del suo caro Nanni Arrighi. Grazie a questo Marta ha contribuito a rompere anche con le teorie dominanti sulla modernizzazione, sull'industrialismo a tutti i costi, l'idea che l'unico modello di sviluppo fosse quello industriale. Invece ci ha dimostrato che anche nelle cosiddette periferie arretrate, nelle cosiddette periferie rurali, come l'Irlanda, la Polonia, il Regno delle Due Sicilie, appunto, esistessero modelli alternativi di progresso e di sviluppo. Marta ha aperto la strada a una visione della modernità plurale, multipla. Ecco, questa complessità Marta riusciva a renderla comprensibile ai suoi studenti, pienamente comprensibile ai suoi studenti, che erano costretti a porsi continuamente domande, a destreggiarsi tra riferimenti letterari, teatrali, antropologici, economici, sociologici, di cui le sue lezioni, credetemi, erano un continuo susseguirsi. È stata una grandissima fortuna. A questo punto dovrei chiudere dicendovi cos'è stata Marta per me. Non so se riesco a farlo. Io ho avuto la fortuna, e credo il privilegio, di essere stato, oltre che un suo allievo, un suo amico. Ma vedete, amica, maestra, ora sono parole che sono vuote, perché credo che molti di voi qui lo sappiano, Marta è stata molto di più, e non solo per me. Marta, come diceva Ingrid ieri sera, è quella che ti prendeva per mano e da una città di provincia del sud, dei sud del mondo, ti portava a danzare sulle punte per il mondo intero. Era la persona che chiamavo quando avevo bisogno di un consiglio, qualsiasi tipo, è quella da cui ti aspettavi la risposta più schietta, più diretta anche. È quella che ci ha fatto pensare a guardare il mondo e i rapporti sociali, i processi storici da sud, dai sud. È quella che, per parlarci, dovevi sgombrare il campo da dogmatismi e posizioni preconcette di sorta. Mi citava spesso un autore, un amico che apprezzava tanto, che era Albert Hirschman, proprio sui rischi insiti nell'ortodossia, di qualunque tipo. L'ortodossia, pa, dice Albert, è consolatoria, tranquillizzante, ripete sempre la stessa ricetta, la stessa terapia per risolvere problemi diversi, non ammettere mai la complessità, volerla ridurre a tutti i costi, mentre le cose reali, sai, sono sempre un po' più complicate. Ecco, a Marta le cose semplici non sono mai piaciute. Aveva la capacità di aprire orizzonti, di farti riflettere sul passato, ma di farti immaginare anche un futuro migliore. Ha attraversato steccati e confini, come le hanno scritto le compagne e i compagni su quel bello striscione qua fuori. Adesso mi piace immaginarla con Franco, tra un bicchiere di vino e una fetta di torta al cioccolato, che si fanno due risate di noi che qua stiamo a piangere, continua a fare la sua rivoluzione gentile, l'ho detto, per usare un ossimoro che ci faceva tanto ridere. Grazie di tutto, Marta, ai tuoi occhi pieni di futuro, che non smettono mai di accompagnarci. Grazie. Allora, giustamente il sindaco mi ricorda qualcosa che è in qualche maniera palese a tutti, e cioè che abbiamo voluto onorarla, onorare la sua presenza la sua memoria, onorare Marta proprio in questo luogo che è stato oggi è, diciamo, storicamente il Castello di Rende, è stato sede del municipio, quindi del massimo simbolo, no? di una comunità, e oggi è sede di un museo. È così che l'amministrazione comunale ha inteso ovviamente onorare la memoria di questa cittadina di Rende. E io adesso vi leggerei un messaggio che è arrivato da Vito Teti, che non è potuto essere qui, ma che ci teneva a portare la sua testimonianza. Ciao Marta, voglio ricordarti per la scelta di abitare con amore e passione la bella e complicata terra di Calabria, tu, polacca e cittadina del mondo, per i tuoi studi e i tuoi libri sul Sud, che hanno chiamato tutti noi a ripensare la questione meridionale, il Mediterraneo, il rapporto tra storia e antropologia, per la tua passione civile e politica, per i 1000 convegni organizzati sui temi più vari e più avvincenti, per la tua capacità di ascoltare e per il tuo sorriso che accompagnava i discorsi, sempre intelligenti, profondi, anche divertenti. Per le tante felicità condivise, come quella di un recente dottorato ad honorem al comune amico, grande storico, Maurice Aimar. Marta e Franco mancherete, per motivi diversi, a tanti di noi. Il loro pensiero e le loro pratiche rivoluzionarie e di libertà resteranno nella storia della Calabria e non solo degli ultimi 50 anni. Latifondo, di cui non avevo condiviso tutto, oggi mi sembra uno dei più bei romanzi, storia, antropologia, memorie, fonti, sulla Calabria, reale e non immaginaria o inventata, al pari de Il Ponte di San Giacomo di Lombardi Satriani e Meligrana e de Il Filosofo e la Catastrofe di Placanica. E tu, Marta, hai avuto la capacità di essere globale nei nostri paesi e locale nei tanti mondi dove ti sentivi a casa. Sostengo con forza la necessità che Macondo diventi un luogo di culto e di pellegrinaggio laico. Amo questa terra, amiamo questa terra, ma a volte è duro constatare che sia senza memoria, non riconosca i suoi eroi, i suoi figli naturali o adottivi e migliori, e abbia una tendenza all'autodistruzione, presentandosi con il volto del folclorismo deteriore, delle retoriche identitarie, del neoliberismo più becero elevato a cultura. La sobrietà, il sorriso, lo stile di donna e di studiosa, l'interrogare e custodire le memorie, proiettandole nel tempo presente da sovvertire che ci hai consegnato, Marta, indicano che spesso il sogno di un'altra Calabria diventa carne e anima delle persone che la amano. Per tante altre cose ti ricorderò, ma adesso vorrei ringraziarti per i nostri lunghi discorsi sulle madri, sulle donne, sui rapporti mamma-figlio-figlia, sulla vecchiaia e sulla morte. Ho amato molto il tuo premuroso modo di informarti sulla malattia della mia vecchia madre e capivi davvero tu, figlia di un'anziana accademica polacca. Buon viaggio, Marta. E mi piace pensare che nel cielo abbia già incontrato Franco, con il quale continuerà a guardare le stelle. Battista Sangineto, amico, parla a nome anche di quella bella esperienza che è il premio Sila. Io non sono qui solo come amico e collega di Marta, sono qui a ricordarla come consigliere d'amministrazione del premio Sila, perché il presidente Enzo Paolini non ha potuto essere presente qui con noi. Quel premio Sila che nel 1989, allora presieduto da Giacomo Mancini, le aveva conferito il premio per il suo libro più giustamente famoso, che era Latifondo, un volume che rimarrà un riferimento nella storia degli studi sulle forme economiche, spaziali e temporali delle proprietà agrarie del Mezzogiorno e dell'Italia intera del XIX secolo. Un modello interpretativo utilizzabile altresì anche per le altre epoche, tanto che l'ho utilizzato anch'io come antichista. è entrata a far parte della giuria del nuovo premio Sila 49 dall'inizio, nel 2011, e sin dalla prima edizione ha immaginato di istituire anche un premio alla saggistica, accanto a quello principale, letterario, un premio che si intitolava Lo sguardo da lontano, incentrato sul Mezzogiorno, dedicato a studiosi stranieri che guardano da lontano il Sud. Un premio che era in fondo uno specchio in cui Marta stessa si rifletteva. Era una lettrice appassionata, competente, attrezzata, non solo di saggistica, ma anche di letteratura. E chi l'ha conosciuta lo sa, ha visto i suoi libri, i suoi scaffali. Era una curiosa e vorace lettrice che discuteva animatamente e profittevolmente con gli altri giurati. Era una studiosa cosmopolita che ha aperto al premio, ma anche a me personalmente, la sconfinata e ramificata rete di conoscenze che aveva nei più diversi ambiti internazionali del sapere. Un modello interpretativo, quello del latifondo, così come lo era anche Marta. Sì, Marta. Marta la studiosa, la mondana, la cosmopolita, la curiosa, l'ebrea, la ribelle. Era un modello interpretativo del Novecento per la sua storia personale e per quella della sua famiglia. E insieme rappresentano il paradigma della storia dell'Occidente, così come lo abbiamo perimetrato fino a poco tempo fa, almeno. La famiglia quasi tutta sterminata ad Auschwitz o rifugiata all'estero, e Marta, che studentessa ventenne, viene espulsa insieme a circa 15.000 ebrei ed altri oppositori dalla Polonia per aver capeggiato, insieme ad altri, la rivolta antiregime contro Gomulka nel 1968. Quella Marta che viene in Italia, prima a Bologna quasi subito dopo, a partecipare a quell'esperimento dell'Università della Calabria a Rende. Quella che, innamorata, accompagna Franco Piperno dappertutto, in Francia, in Canada, negli Stati Uniti, negli USA, dove insegna nelle più prestigiose università, Princeton, Harvard, CUNY, e poi torna qui, all'Università della Calabria. Quella Marta che parlava molte lingue, che le usava per capire il mondo e le persone, creando una fittissima maglia di amicizie, conoscenze e rapporti di studio. Il premio Sila prende l'impegno di ricordarla nel modo in cui merita una studiosa e una persona che rimarrà per sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori, arricchiti entrambi dalla sua vivida intelligenza, dalla sua vasta sapienza e dalla sua profonda e leggera umanità. Già mi consola sapere, per averlo visto insieme a mia moglie Anna, che è qui in sala, quest'estate, so già che la nostra amata amica Marta è già dal 2013 un vero e proprio pezzo di storia. Perché la sua vita è, come qualcuno sa e qualcun altro aveva visto nelle immagini che Ivana Russo ha mostrato, sta mostrando in questo loop continuo, è già sui muri di un museo, il Polin di Varsavia. Lei quasi non ce l'ha neanche detto che era nel museo, l'abbiamo quasi scoperto noi, poi ce l'ha detto mentre eravamo a Varsavia quest'estate. Cioè, proprio alla fine c'è qualcosa che mi riguarda. Marta è ricordata in questo museo Polin, che è stato aperto, il Museo degli Ebrei Polacchi, aperto il 19 aprile del 2013, nel 70° anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia. E questo museo racconta la storia millenaria degli ebrei in Polonia. Marta è ricordata nell'ultima sezione del Polin, quella dedicata alla rivolta del 1968. E una delle didascalie della storia di Marta, perché sono almeno un paio di salette, dice, recita testualmente, ve lo leggo, era un membro del reparto esploratori di Jacek Kurak, mi scuseranno gli amici polacchi, ma comunque uno dei capi della rivolta insieme al più famoso Karol Modzelewski, è vero? Sì, come si pronuncia così? Sì, forse noi lo conosciamo di più perché poi è stato uno storico importante. Nel quartiere, e qui è ancora più difficile, nel quartiere Zaliba Bars di Varsavia. Era attiva in un circolo di giovani che chiedevano la democratizzazione del regime e la fine della repressione sociale e politica in Polonia, i cosiddetti commandos, un gruppo dissidente. A seguito della repressione della rivolta del maggio 1968 fu espulsa dall'università e le fu comminata una pena detentiva con sospensione condizionale. Nel corso di quello stesso anno emigrò e venne in Italia. La parola Polin, che dà nome al museo, significa o Polonia o riposo qui. Marta, ora riposerai anche tu qui in Italia, qui a Rende, accanto a Franco. Addio, Marta, addio. Buongiorno a tutti, non so se riuscirò a parlare, ci provo. Con Marta ci conoscevamo quando siamo nate in Polonia, o meglio da quando era nata Marta, perché era più giovane di me. Le nostre madri erano amiche intime e diverse nostre vicende si erano sviluppate in un certo senso in maniera parallela. Un esempio è il fatto che ci siamo trovate entrambe in Italia dopo gli eventi del 68 polacco. Marta è sempre stata la mia amica speciale, mia sorella e il mio alter ego. Come tutti quelli che l'avevano conosciuta sanno, è stata una persona fuori dal comune. Con la sua gioia di vivere, la sua energia, il suo calore, attirava le persone. Aveva molti amici in diversi paesi del mondo che le volevano bene e lei non dimenticava nessuno. Voleva anche che si conoscessero tra loro, si prodigava per mettere in contatto chi viaggiava dove lei conosceva qualcuno. Era sinceramente interessata a tutte le persone che incontrava, estremamente disponibile. Cercava di capire anche coloro che non condividevano le sue opinioni. Sempre curiosa di tutto, indipendente nel pensiero, sfuggiva ad ogni classificazione, era a casa ovunque. Amava le persone, gli animali e gli oggetti. Amava il mondo e la vita. Ah, ciao a tutti. I will speak English. My Italian is not very good. I remember Marta from when we were very young. My first memory of her was in her house, in her mother's house in Żoliborz. And every Christmas, we would ask my mother, her sister Ewa, czy Marta będzie w domu? Czy Marta będzie na święta? If Marta's gonna be there for Christmas. And she was always there. So I remember her every year. She would come and bring her smile, her crazy hair, her beautiful necklaces. And I don't remember any present she gave me, but I remember that. Her son, her smile and what she brought and her stories. And it was always like that for years. And every year, it was, where is Marta? Is she in New York? Is she in Italy? And we would try to visit her. She would come to Poland, visit us. And it was always her smile, we remember, her positive life. There was nothing sad, there was nothing negative. And we were looking forward to have more of that. We just recently, me and my family, became neighbors of Marta in Poland. And we didn't get to spend time with her. So on behalf of the family, we would like to give goodbyes to Marta. Rest in peace. Nasza ciocia. Thank you. Grazie a Luzena e a Kajik, il nipote di Marta, per queste parole. E adesso il microfono è aperto, chiunque vuole intervenire e lasciare un messaggio è il benvenuto. C'è Angelo che forse vuole... Sì, anche Francesco, sì. Sì. No, c'è Angelo che voleva... Francesco, anche poi Massimo in... sicuramente. E Angela, Angela. Angelo e Francesco. No, Angelo. Va bene. Diamoci alcuni minuti a testa e parliamo un po' tutti. Grazie, io sarò molto breve e voglio innanzitutto dire un grazie a Marta, che penso viva e presente da credente, e quindi la ringrazio, ma voglio ricordare Marta dall'interno della istituzione in cui ha lavorato per molti anni, cioè l'Università della Calabria. La ricordo come forse uno dei suoi primi allievi, da quando è ritornata negli anni 90. La ricordo da adesso docente del dipartimento in cui lei ha lavorato, che si chiamava Dipartimento di Storia e poi Dipartimento di Studi Umanistici. E tengo a ricordarla da questa prospettiva, perché credo sia doveroso che l'istituzione per cui ha lavorato qui la ricordi e oggi e continui a ricordarla in seguito. E a questo proposito voglio dire due cose. Qui vedo i suoi allievi, ha parlato già Paolo Perri, ma vedo tanti altri, Antonio Buttiglione, altri suoi tesisti, laureati con lei, Matteo D'Alena, sono tanti. E voglio ricordare che Marta ha fatto scuola, una dimensione che nell'Accademia negli ultimi anni si è andata rarefacendo, questo dobbiamo tenerlo presente. Ha fatto scuola e ha fatto rete, perché io, tra le tantissime cose che potremmo ricordare, noi che lavoriamo all'Unical, è che la sua preoccupazione era innanzitutto di far conoscere tra di loro, non solo personalmente ma anche attraverso gli studi, gli storici dell'Unical. Questa dimensione di rete, anche questa è un po' a rischio e bisogna tenerla viva. E voglio infine ricordare, ma è inutile ricordarlo, però lo faccio ugualmente, che Marta è stata una delle più prestigiose figure che abbia insegnato in questa Università della Calabria. E quindi io personalmente mi vorrò fare promotore di un momento di ricordo dentro l'istituzione accademica e possibilmente anche spero che ci sia poi un luogo dedicato a lei, perché quello che io riscontro adesso, io insegno la materia che ha insegnato lei prima di me, insegno storia moderna, e mi accorgo che gli studenti dei miei corsi già non ricordano Marta Petrusevich. Io spesso la nomino a lezione, molti non la conoscono, E proprio nell'ultima visita che le ho fatto a casa sua, ho portato una mia allieva, si è laureata con me da poco, che è rimasta sbalordita, entusiasmata dalla figura di Marta, non solo come persona, ma anche come produzione scientifica. Quindi, ecco, ci tenevo a dire queste semplici cose, oltre la dimensione umana, questa neanche scontata, c'era un affetto, oltre che una scuola, un lavoro di disciplina, un dialogo continuo con i suoi studenti, ma c'era anche una, quasi un decidere assieme gli argomenti, e quindi un coinvolgere la parte studentesca nel lavoro di docenza. Questo si vedeva attraverso i corsi, attraverso le tesi di laurea e attraverso i tanti percorsi che poi hanno fatto ricerca a partire dalle sue lezioni. Ecco, quindi ci tenevo a ricordarlo, oltre che come per il legame di affetto che mi unisce a lei, parlo al presente per il motivo che ho detto all'inizio, ma ci tenevo a ricordarla come dipendente della sua dell'istituzione in cui lavoriamo, abbiamo lavorato, e soprattutto come membro del Dipartimento di Storia e ora di Studi Umanistici. Quindi grazie Marta. Massimo. Sì, guardate, anch'io voglio essere breve, anche perché cosa c'è da dire, insomma, per tutti noi la morte di Marta è stata inaspettata, lo è stato probabilmente anche per lei, perché tutti quanti abbiamo potuto misurare quanta energia, quanta voglia, quanta curiosità, quanto interesse avesse fino all'ultimo. Aveva tantissime cose da fare, quindi davvero inaspettata per lei, per tutti quanti noi. Possiamo dire probabilmente che oggi siamo qua, ma dobbiamo avere un atteggiamento che forse Marta avrebbe anche voluto, di saluto alla vita, di ringraziamento alla vita, per una vita fortunata, intensa, che Marta ha fatto. E da queste cose che secondo me bisogna partire. Dal fatto che ha sofferto pochissimo, aveva la sua malattia naturalmente, che teneva a bada, che sembrava riuscire a tenere a bada, e ha sofferto pochissimo, al contrario di Franco che, appunto, come sappiamo tutti, ha avuto una lunga agonia. Naturalmente è morta troppo giovane, questa è la cosa che possiamo dirci. Possiamo dire che ha sofferto poco, ma che ci manca proprio perché è morta troppo giovane. E non dirò nulla rispetto a quanto sappiamo di Marta, studiosa. Marta, io sono stato uno dei suoi allievi, all'inizio proprio, faceva al tempo in cui i piani di studi erano ancora liberi, pensate, insomma. E lei era contentissima di questo fatto che io sceglievo storia economica e sociale del Medioevo, pur non c'entrando nulla con il mio piano di studi, perché sapevo della capacità maieutica, appunto, di Marta. Però guardate, oggi io credo che sia, vorrei insieme a voi soffermarmi su un aspetto che aveva Marta, che era quello, aveva il dono dell'amicizia. Fra tutti quanti quelli che abbiamo parlato, tutti quanti che siamo qua, forse questo è l'elemento che più, diciamo, possiamo pensare come una permanenza di Marta. Molte delle cose scritte da Marta vivono appunto di amicizia, e tutti quanti noi sappiamo quanto quotidianamente, a volte, o anche dopo un po', Marta entrasse nelle nostre vite con domande, attenzioni particolari. E forse questo è il modo suo, appunto, la caratteristica di Marta, di partecipare appunto al mondo degli affetti più intimi. Tentava appunto di entrare in una specie di consonanza con la vita di tutti quanti noi. E proprio appunto in questa ricomposizione fra la storia e l'esistenza singolare di ciascuno di noi, degli amici, dei compagni, Marta percepisse e ci offrisse un modo nuovo di vita. Di vita e anche di intendere il mondo. Proprio questa sua capacità della storia e dell'esistenza di ciascuno di noi. È come se Marte ci abbia appunto indicato i punti in cui la vita diventa il mondo e il mondo diventa un po' la vita. Sull'amicizia volevo dire, perché poi finirò con una, diciamo, riprendendo una proposta. L'amicizia per Marte era appunto sapere, sapere, una specie di, diciamo, di esperienza, di affinità elettiva in qualche modo, oltre appunto le contingenze e tutti gli aspetti, diciamo, della presunta attualità del tempo. Per Marta l'amicizia è sapere, e Marta in questo senso è stato un esempio, appunto, no? Un esempio di filosofia, di amicizia, di sapere, di capacità di dare, appunto, di darci tutti noi un'immagine precisa, un'interpretazione, come è stato detto, precisa del mondo. Con Marta si stava insieme, io lascio queste suggestioni, sembrava di stare insieme e ci si mostrava pure, perché a Marta piaceva moltissimo esporsi, prendere parola, ce l'ha insegnato nei suoi corsi, nelle nostre conversazioni. E ci ha insegnato Marta che ognuno è la propria vita, è quello che fa. E aveva, diciamo così, una qualità che richiedeva a tutti quanti noi, o almeno così io l'ho vissuta, cioè aveva la passione, e ci chiedeva a noi di tenerla bene in mente e praticarla, la passione di osservare e anche giudicare il mondo. Sembrava che sentisse le emozioni senza però affidarsi a quel sentimentalismo che troppe volte c'è. La lealtà era un'altra sua caratteristica, la lealtà, non la fedeltà, la lealtà. E la consapevolezza, appunto, che l'amicizia, Daniela è partita dall'idea della comunità, appunto, l'amicizia è come se fosse un rifugio, diciamo così, un luogo, specialmente per chi come Marta non aveva una famiglia tradizionale e non aveva un credo religioso. Quindi questa dell'amicizia ancora di più è un tema importante. Ci diceva spesso Marta che il pensiero, è come quando chiunque di noi l'abbia sentita, ascoltata, era un modo, il suo pensiero veniva fuori dalle esperienze che raccontava, da quello che era accaduto, dalla realtà che aveva vissuto, e ci ha sempre detto di tenere fermo, molto fermo e stretto, la connessione appunto fra l'esperienza vissuta appunto e il pensiero da cui nasce. Solo così appunto nasce il bisogno che aveva Marta, della curiosità di comprendere, vivere e agire. Marta, per Marta, come per Franco, vivere e agire. Ecco, io penso che Marta abbia appunto amato il mondo, no? E naturalmente ne ha sostenuto l'esistenza, lo ha interpretato e l'ha voluto. Una volta mi disse, io che sono lamentoso per varie cose, mi disse: ma tu con chi desideri stare in compagnia? Che è una domanda importante. Ecco, io credo che Marta mi volesse dire, ma credo che volesse dire a tutti quanti noi, che molte delle nostre decisioni, delle considerazioni sul bene, sul male, gli aspetti del mondo, decidano e dipendano dalla scelta dei nostri compagni, da chi decidiamo di stare insieme, dalle nostre amicizie e da coloro appunto con cui vogliamo passare parte della nostra vita, come faceva Marta, che sceglieva appunto le persone con cui passare tempo, esperienze, eccetera. A Marta piaceva molto ricordare, tutti quanti noi abbiamo fatto esperienza degli incontri con Marta a casa sua, in cui appunto era un continuo ricordare, però questo modo di ricordare non è solo nostalgia, no? Dobbiamo immaginarlo un po' come un atto diciamo un atto creativo, direi, un ricordare per mettere al mondo appunto un'idea nuova appunto del mondo stesso, quasi un'azione politica, il ricordo per lei era quasi l'innesco di un'azione politica. Finisco venendo un po' a quello che mi tocca oggi riprendere anche da qualcuno che l'ha scritto, Vito Teti lo diceva, ieri, nei giorni scorsi a casa di Marta e Franco l'abbiamo ripetuto tante volte. C'era un poeta che Marta amava, come Franco, era Rilke, e un suo verso è: tocca a noi fondare ciò che resta. Ecco, ciò che resta sono il ricordo di Marta, i suoi scritti, tantissime cose, ma è Macondo ciò che resta. Guardate, mai come io, come tanti voi, abbiamo frequentato Macondo in vari momenti, però mai come nei giorni scorsi in cui non c'era più Marta, io sentivo la potenza di Macondo, di quel posto che ha attraversato, come hanno scritto e detto, la vita di tutti noi, dove sono accadute, dove si sono creati pensieri bellissimi e pensieri cattivissimi pure, cioè dove la vita è stata veramente nella sua essenza più attiva, più energica, più creativa. Ecco, a noi, come dire, tocca fondare ciò che resta, al netto naturalmente delle questioni di proprietà, di eredità, eccetera, al netto di quello, noi dobbiamo far sì che Macondo sia ancora quel pezzo di terra in cui può nascere un pensiero di libertà, che sicuramente era la cosa che piaceva di più. A noi quindi, appunto, tocca, mettiamoci, facciamo questa cosa, perché soltanto girare lì dentro, nel giardino, pensare che ci sono stati i lupi, pensare alle persone che ci sono state lì dentro, significa appunto sentire la vita e darci un nuovo slancio, una nuova azione di ciascuno e di tutti, come piaceva a Marta. Grazie Marta. Francesco Raniolo. La cosa che mi ha colpito di Marta è che ci sono persone che non le devi guardare negli occhi, perché se le guardi negli occhi e ti sorridono, non puoi non innamorartene. E Marta è stata questo. Io ne conoscevo la fama, ma neanche tanto, però avevo capito il livello e l'autorevolezza scientifica a livello internazionale. L'avevo anche incrociata all'Unical. Io sono all'Unical dal 2006, ormai 20 anni. Ma non avevo mai avuto modo di avere un rapporto con lei un po' più stretto, un po' più d'amico, un po' più da collega. Se non che una volta mi venne a trovare, io da poco facevo il direttore del dipartimento. Ricordo benissimo la scena, il sole, i colori. Entrò nella stanza, le diedi del lei. Lei quasi un po' con il suo sorriso, disse: no, io sono Marta. Ci fu una miscela di occhiate, di sorrisi, di quel tono di voce inconfondibile, di quell'inflessione. Me ne sono innamorato. Non è che ci siamo frequentati, non lo posso dire, ma ogni volta che ci si vedeva, ci si sentiva al telefono, anche dopo mesi o forse anni, era come se fosse l'inizio, era come fosse se ci fossimo lasciati un'ora prima o mezz'ora prima. Abbiamo collaborato assieme su alcune cose, il famoso convegno che ricordavo, chiedevo ad Alessandra, non mi ricordavo bene il nome, quello dedicato ad Arrighi, il convegno internazionale importante che mi trovai apparecchiato, io ero arrivato da poco come direttore. Abbiamo collaborato moltissimo insieme a Vito Teti, a Mimmo Cersosimo, per il dottorato honoris causa a Maurice Aymar, quando facevo il coordinatore del dottorato. Abbiamo collaborato anche in esperienze al limite, i liminari tra l'università e il territorio, per esempio Futuri Urbani, con l'amica Maria Francesca D'Agostino, lei è stata sempre disponibile a venire. E qui ho capito due cose, piano piano, non le ho capite subito, ma piano piano le ho capite, molto è stato detto. Le grandi personalità, le grandi donne intellettuali, ma anche uomini intellettuali, credo che abbiano alcune doti particolari. Certo, le doti scientifiche, tutto quello che vogliamo, il senso del problema, la capacità di decostruire, ma c'è qualcosa di più che ha a che fare con l'umanità. E senza queste doti dell'umanità credo che l'autorevolezza scientifica, insomma, si apprezza solo leggendo qualche voce scritta da qualche parte. Quali erano queste umanità? Massimo ha detto il dono dell'amicizia, il dono di farti, di portarti al suo livello. Tu non ti sentivi a disagio con Marta, anche se quando poi via via che la conoscevo io mi chiedevo, ma qua che ci sto a fare? Perché non cambio lavoro? E lei ti faceva sentire un amico, ti faceva sentire a suo livello. E forse ti dava la spinta e la forza. Ho detto, boh, forse. Aveva un'altra grande dote, la serietà. Non c'era nulla di banale. Marta, vieni a fare una chiacchierata per introdurre la nuova edizione di Futuri Urbani. Sì, va bene, ma non arrivava mai non preparata. Iniziava in sordina. E poi, come i grandi musicisti o i grandi pittori, c'erano quelle pennellate straordinarie. E anche una frase poteva diventare, diciamo, una lezione di vita, no? Da prendere appunti. Tra l'altro, non so se è l'ultimo, ma credo che uno degli ultimi scritti l'ha pubblicato proprio in un volumetto che abbiamo curato con Maria Francesca D'Agostino, Futuri Urbani, che raccoglieva l'esperienza quinquennale di... E il libro praticamente apre con un suo saggio sul rapporto tra città e libertà. Una delle ultime volte che ci siamo visti fu proprio da voi, da Daniela Filorosso, per il ricordo di Franco, e andammo lì a portare una copia del libro. E forse quella dedica, pensandoci ora, poi ci siamo risentiti, devo dire, durante le vacanze di Natale, strano. Non ci sentivamo mai, ci siamo sentiti almeno 2 o 3 volte tramite WhatsApp e tramite telefonate. Tra l'altro pensavo all'università. Voleva proporre all'Unical un'iniziativa che aveva a che fare con mostre, e mi disse, ma tu non so se ormai hai un ruolo, però sei una persona sorridente e quindi mi rivolgo a te. Ok. Come ci lasciamo con Marta? Ci lasciamo in quella dedica che abbiamo inventato lì nel momento, guardandoci con Maria Francesca, e la dedica fu amica del cuore, maestra di libertà. Ecco, io la ricordo così, un'amica del cuore e una maestra di libertà. Quando ricorderò il piacere di essere stata all'Unica, la ricorderò che la presenza di Marta forse è stato uno dei meriti che ho trovato all'Unica. Grazie amiche e amici. La testimonianza di Bascia, un'amica carissima, tradotta da Luzzena. Dobrze. Ale ja powiem 3 zdania. Ja jestem przyjaciółką Marty ze szkoły, z Warszawy, ale nie będę mówiła o historii naszego życia. Sono un'amica di Marta, amica di scuola di Varsavia, ma non parlerò della storia della nostra vita. Chciałam powiedzieć o jednej osobie, która jest tutaj na sali. Volevo parlare solo di una persona che è qui in sala con noi. To jest, jak domyślają się przyjaciele, myślę o rodzinie z wyboru, o Bożenie i jej synu Giuseppe. We call him Giusio. Penso, come potete indovinare, a Bożena, alla sua famiglia d'elezione, che, era che è Božena, e suo figlio Giuseppe. Tutaj zrozumiałam, że większość z was, a właściwie wszyscy, mówili o chwilach świetności Marty. Se ho capito bene, la maggior parte di voi qui ha parlato dei momenti di gloria di Marta. Tymczasem życie Marty nie zawsze było ani łatwe, ani takie piękne, chociaż było piękne. Invece la vita di Marta non è sempre stata una vita di gloria, c'erano dei momenti difficili. Umierały zwierzęta, które Marta kochała. Morivano gli animali amati da Marta. Chorował Franco i umarł, i to była bardzo trudna choroba. Franco era malato, poi è deceduto, e sono stati momenti molto difficili. Marta zachorowała i ostatni rok wydawało się, że będzie wygrany. Nie udało się. La stessa Marta si è ammalata e sembrava durante l'ultimo anno che ce l'avrebbe fatta, non ci è riuscita. I przez cały ten czas, od momentu, kiedy Józiu się urodził i był malutki, Bożena była z Martą i obok Marty. E per tutto questo tempo, dal momento della nascita di Giuseppe, Bożena era accanto a Marta, era con Marta. Wybrały sobie siebie, nie tylko jako przyjaciółki, ale jako rodzinę. Si sono scelte non solo come amiche, ma come famiglia. I teraz, Bożenko i Józiu, zostajemy rodziną dalej, mimo że Marty nie ma. E ora, Bożena e Giuseppe, restiamo una famiglia, anche se Marta non c'è più. So che c'è Angelo che vuole parlare. Se no Antonio Buttiglione, sì. E poi Angela sicuramente. La professoressa Marta Petrusevic è stata una maestra e una guida per me e per studiosi, ricercatori, dottorandi e studenti di diverse generazioni, un punto di collegamento tra vari mondi, accademici, culturali, sociali, su scala internazionale, come è stato più volte detto. Soprattutto è stata un punto di riferimento costante per me e per i giovani studiosi e studenti dell'Università della Calabria. Il contatto con lei è stata un'esperienza determinante perché ha favorito un allargamento di vedute e di orizzonti non scontato in un contesto periferico. E soprattutto una metodologia incentrata sul pensiero critico, ma sempre comunque in modo aperto al dialogo e al confronto, anche tra punti di vista diversi, sempre disponibile sul lato umano e con una grande pazienza. Teneva molto alla partecipazione e allo spirito di comunità, e aveva messo a disposizione uno spazio comune in cui i ricercatori, i dottorandi e gli studenti potessero dialogare, favorendo il confronto dialettico e lo sviluppo culturale in modo autonomo. Con me è stata sempre presente, gentile e premurosa, mi ha seguito nel percorso di studio e di ricerca, mi ha dato degli spunti e delle indicazioni fondamentali per considerare in modo originale e inedito i processi storici dell'Italia meridionale e della Calabria, al di là degli stereotipi e delle rappresentazioni dell'arretratezza e della marginalità. Soprattutto è stata sempre disponibile a dare consigli, osservazioni, suggerimenti e sostegno alle mie attività e ai miei progetti di ricerca, indirizzandomi sempre ad andare avanti nonostante i problemi e la precarietà di un ambiente professionale difficile. Mi ha coinvolto nella didattica e negli importanti eventi culturali organizzati all'università e mi ha garantito sempre la sua presenza negli incontri per presentare le mie ricerche. Inoltre ha voluto e saputo coniugare l'attività scientifica e accademica internazionale con un forte impegno civico e culturale nel basso dei territori, in particolare di quello calabrese e cosentino, assicurando sempre la sua presenza a una molteplicità di eventi e iniziative a cui partecipava, come è stato anche ricordato prima, sempre con grande piacere e con una grande professionalità. Infine sono qui oggi, a parte per le mie considerazioni e per ringraziare la professoressa Petrusevic, anche per portare il saluto e la vicinanza dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli e della segretaria generale Marta Herling, a cui la professoressa era legata anche da rapporti di amicizia, oltre che collaborazione professionale. E infine il saluto del professore Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno, con il quale insieme anche alla professoressa ci eravamo visti probabilmente per l'ultimo impegno pubblico della professoressa la settimana scorsa in un convegno a Cosenza. Grazie. So che c'è un altro suo allievo di cui adesso ho appena dimenticato il nome, forse Salvatore, che mi hanno detto. Ecco, scusami. E come volete? Salve a tutti, io spero di... sono molto emotiva, quindi sto cercando di essere presente a me stessa. Molti di voi non li conosco, altri sì, sono dei divisi assolutamente familiari, però so che con tutti voi mi accomuna un qualcosa. Io lo chiamo amore, amore per Marta. Amore perché si faceva voler bene, perché era presente. È quello che avete detto già tutti, dovrei ripetermi, quindi... più che soffermarmi su quello che è la mia esperienza affettiva con Marta e che ci accomuna, quindi la conoscete, conoscete Marta sotto questo aspetto benissimo, vorrei parlarvi di un rapporto con Marta che naturalmente era mediato da Franco e io non posso non parlare di Franco, è impossibile per me, qualsiasi cosa io dica c'è Franco Piperno di mezzo, del resto ci ho lavorato 25 anni, sono stata sua amica, abbiamo condiviso tanto, quindi è difficile non inserirlo. Franco, oltre che il mio professore, alla fine è diventato un collega, perché lui mi trattava da collega, è stato il mio maestro, quello che ha fatto uscire fuori tutta quella grinta che io non pensavo di avere, perché dovevo lottare con lui, quindi dovendo lottare con lui ho dovuto far uscire questa parte di me e questo è quello che riguarda Franco. Marta è stata un'altra maestra, un'altra grande maestra, mi ha insegnato che lottare sì, con le unghie e con i denti, quando sei sicura di quello che stai facendo o quando vuoi farla una cosa, nonostante magari tu sappia già che non, diciamo, stai forse osando, esagerando, però mi ha insegnato, mi ha dato una grande lezione, quella di fermarsi, respirare e valutare quello che stava succedendo, quello che erano le conseguenze di una decisione. E questo è stato importante per me, perché ho ripreso una parte di Angela, quindi per me non è solo un'amica Marta, è una grande maestra di vita, quindi l'ho sempre ammirata e l'ammirerò sempre, mi ha sempre accolta. L'altra parte che vorrei farvi conoscere è la Marta innamorata dell'astronomia, è sempre il mio ambito, non posso anche in questo caso esimermi. Marta era innamorata del cielo, vedeva una possibilità enorme per tutti ed era innamorata di questo posto. In questo posto ho dei ricordi meravigliosi con Marta. Abbiamo organizzato delle serate osservative con Franco, abbiamo organizzato serate osservative senza Franco. Abbiamo organizzato un progetto per la riqualificazione di questo luogo a cui lei era molto affezionata, che si fondava soprattutto su due corsi di astronomia per ragazzini. Quindi abbiamo fatto un percorso meraviglioso cercando di far capire che abitare qui è una risorsa inimmaginabile, piuttosto che in una grande città. E anche questo con Marta l'abbiamo fatto. Abbiamo collaborato in diverse situazioni, quindi abbiamo anche collaborato quando abbiamo lavorato al planetario insieme a Franco. E Franco ci credeva, ma Marta ancora di più. Quando Franco è morto, per Marta era diventato importantissimo far rivivere quel planetario, scelta assolutamente, decisione condivisa, perché quel planetario è una risorsa non solo inestimabile per una città come Cosenza, per il territorio cosentino, ma anche della provincia, ma anche della regione, perché eravamo partiti nel migliore dei modi. Ma soprattutto era una questione proprio di amore per quello che è il cielo, amore per tutto quello che riguarda la divulgazione, riguarda gli altri. Non riesco, sto cercando di non piangere, quindi sto facendo una fatica enorme. Marta mi ha scritto pochi giorni fa, vi leggo il messaggio. Gli ho scritto, vabbè, ci siamo confrontati su altro, poi gli ho scritto, mi farebbe piacere riabbracciarti. E la sua risposta è, cara, dovete riprendere il planetario. Sì, sono a casa, perché gli avevo detto. E io le ho risposto, sì, è importante. E quindi poi gli ho detto, ci vediamo mercoledì. Questo mercoledì non è mai arrivato, adesso io sono qui. Io penso che sia uno dei progetti da portare avanti questo, in memoria di Franco e in memoria di Marta, perché quello che leggo sui giornali è osceno, è una cosa oscena. So di associazioni che si sono proposte, non so per quale motivo, di far diventare quel planetario un luogo ricreativo in attesa di, credo che sia una scelta assolutamente scellerata. Quel planetario non è nato per quello. Quel planetario deve essere un luogo di ricerca, un luogo di divulgazione, un luogo dove tutto ciò in cui credevano Marta e Franco possa essere portato avanti nel migliore dei modi. Non è un luogo ricreativo, perdonatemi. Quindi su questo io glielo prometto a Marta, come gliel'avevo già promesso. Farò di tutto affinché il loro progetto sia portato avanti, perché è un progetto corretto, un progetto importante, un progetto valido, ma soprattutto perché gli ho voluto un bene enorme e gliene vorrò ancora. Grazie, scusate. Grazie, anche io sono qui per dire i miei tantissimi grazie a Marta. Grazie perché mi hai cambiato la vita, hai cambiato la vita a tantissimi di noi. Grazie perché ci hai scelti, perché hai scelto di tornare a vivere qui, hai scelto di costruire qui una comunità, una rete, come è stato detto. Grazie perché hai scelto ognuno di noi, hai scelto me, hai scelto tantissimi dei colleghi. Io ho conosciuto Marta ormai 23 anni fa, quando da studente universitario sono finito in uno dei suoi corsi, e il suo atteggiamento lo sappiamo tutti, era disarmante, non ti lasciava andare. Quando ti acchiappava, poi anche oltre alla tua volontà era difficile di vincolarsi, perché ti portava, come è stato detto, ti accompagnava in profondità, perché era scomodo pensare che dovessi affrontare la complessità, e lei ti insegnava a non aver paura di affrontare la complessità. È molto difficile essere all'altezza di Marta, anche se non ti faceva sentire in imbarazzo quando affrontavi una conversazione, perché ti faceva sempre sentire a tuo agio. Le occasioni che ci ha fornito sono così straordinarie che oggi ricordarle sembra impossibile che si siano verificate, che si siano verificate per noi. Ha riunito studiosi per noi dai 5 continenti, ha portato il mondo qui per noi. Mi viene in mente il convegno di Torre Camigliati del 2006, cioè con personalità di primissimo piano che te le sogni di incontrarli in una vita, invece erano lì in un fine settimana. Jane e Peter Schneider, Giovanni Enrighi, tantissimi altri, Maurice Aymar. E ci ha mandato per il mondo, ci ha scelto, ci ha lasciato un imprinting, perché ognuno dei suoi allievi ha un imprinting, ha il marchio di Marta, siamo marchiati dentro, a fuoco. Ci ha mandato per il mondo, contro le nostre paure, al di là delle nostre paure, quindi ha costruito una rete di cui le siamo immensamente grati. Devo dire che poi personalmente, quando dai primissimi momenti delle sue lezioni, che sono stato uno shock, ringrazio Paolo Perri per aver parlato per tutti noi, l'ha fatto in maniera efficacissima e so quanto gli sia costato. In quelle lezioni, che erano all'inizio un vero e proprio shock, da subito mi è bastato, tra l'altro, dirle che vivevo a Catanzaro, le si sono illuminati gli occhi quando seppe che avevo frequentato lo stesso liceo, aveva frequentato il suo Franco, il liceo che era stato del suo amico Giovanni Mastroianni, di Piero Bevilacqua, di Augusto Placanica. Mi volle portare a casa dopo poche settimane, insomma, quindi era un po' insolito per un ragazzino, per quanto presuntuoso, ma provinciale, che veniva da una città di provincia, trovarsi davanti a questo monumento vivente, con la sua storia, con la sua forza scientifica, ma soprattutto umana. Quindi tantissime grazie. Oggi devo anche portare il saluto e i ringraziamenti per tutto quello che Marta ha rappresentato, anche in tutte le occasioni in cui è stata nella nostra città di Catanzaro, da parte del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorito. Io sono il suo capo di gabinetto, quindi lo faccio anche con tutto l'affetto che da Catanzaro c'è per lei, perché ha arricchito il dibattito culturale della nostra città in tutte le volte che è stata con noi e in tutte le volte che ha voluto offrire il suo contributo scientifico. E tutto quello che ci ha lasciato è qualcosa che dobbiamo coltivare, lo dobbiamo fare mantenendo questa rete e cercando di essere all'altezza. Sarà difficile, per tutto quello che ci ha insegnato, per tutto quello che ha rappresentato per ognuno di noi e per tutti noi insieme. Grazie Marta. Prego, so che c'è ancora qualcun altro che vuole consegnarci un ricordo. Professore Infante, Davide Infante. Allora, perché siamo qui? Perché la nostra vita è fatta della vita degli altri. Questa è. Siamo tutti qua perché cerchiamo in Marta un pezzo della nostra vita. Come ho conosciuto Marta? L'ho conosciuta quando dovevamo fare il colloquio per una borsa di studio al Dipartimento di Economia. Eravamo lì fuori, eravamo in tre i candidati e ci siamo conosciuti e Marta immediatamente esprime simpatia, e quindi, anche se eravamo, come dire, in rivalità, i posti erano solo due, no? Quindi alla fine abbiamo ottenuto, io e lei, questa borsa. Lei è storia economica, io in economia. Poi siamo andati a festeggiare a Sanfini. Lei abitava a Sanfini, forse qualcuno se lo ricorda, e come dire, non ci siamo accorti in realtà che poi si erano fatte le 4 del mattino, no? E io, che allora ero contrario alle automobili, non avevo la patente, quindi dormì a casa sua, no? E ci svegliamo al mattino e abbiamo continuato quello che abbiamo fatto. Successivamente, lei poi è andata al Dipartimento di Storia, io sono rimasto al Dipartimento di Economia, però allora le vite erano complicate, no? Nel senso che non c'era una distinzione tra essere di sinistra, essere sovversivi ed essere docenti universitari, no? Questa è intervenuta dopo, in realtà molto dopo. Una volta l'accompagnai a Paola, era il 77, no? Mi chiede, per favore mi porti a Paola. Erano già, diciamo, c'erano già dei problemi che conosciamo tutti. E cosa successe? Successe che io al ritorno da Paola, avevo già preso la patente nel frattempo, al ritorno da Paola fui fermato dalla polizia. Chiaramente lei era stata seguita, no? Quindi, va bene, finisce qui. Un'altra volta io abitavo a Piazza Duomo, come imbattersi in Marta anche in modo trasversale, abitavo a Piazza Duomo, eravamo in tanti che abitavamo nel centro storico, era alternativo allora abitare nel centro storico. Abitavo lì e mi viene a trovare Carlo Ammirante con la moglie, era nato da poco il suo figlio e quindi abbiamo fatto un po' di festa. A un certo punto Carlo dice: accompagnami in automobile che c'è, vado a prendere una cosa, non mi ricordo che cos'era, mi ricordo però che cosa trovammo, no? Apre il cofano e a un certo punto Carlo, che era, come dire, un cuor di leone, in realtà vide una scatola in quel deposito lì e disse: e quella, ma quella non è mia, da dove viene fuori? No? Potrebbe essere un attentato, una bomba, chiamiamo la polizia. Una vergogna micidiale, perché arriva la polizia lì, però quindi, si avvicinano i poliziotti, la prendono. Che cos'era? Era un porta lettere di Marta, no? Che lui aveva, Ammirante aveva aiutato Marta a fare il trasloco di casa e era rimasto là dentro, no? Come dire, niente di. Successivamente ci fu tutto il problema delle Brigate Rosse e il rapimento Aldo Moro. E che cosa accadde? Accadde esattamente questo, che io scrissi un articolo per il Manifesto sull'estraneità di Franco, perché dicevano che all'Università Calabria c'era la mente delle Brigate Rosse, su Franco, in cui dicevo che questa cosa non stava né in cielo né in terra. Questo articolo quando esce? Quando deve uscire? Il giorno in cui fu ucciso Aldo Moro. E c'era il problema che usciva sulle prime pagine, doveva uscire, diciamo, come era giusto, tutta la notizia su Aldo Moro, e il Manifesto decise di pubblicare lo stesso il mio articolo, no? Devo dire, con una mia grande, diciamo, preoccupazione e anche dolore, perché Moro era stato mio professore alla Sapienza, no? Quindi io c'avevo questa cosa tra combattere l'idea di far conoscere la verità su Franco, no? E dall'altro lato però la prima pagina contraddiva un po' queste cose. Marta mi telefonò successivamente, così come mi telefonarono altri, per dirmi: hai fatto bene comunque a far uscire quell'articolo. Ci siamo ritrovati altre volte. Il problema è che, come ha sottolineato qualcuno, è che con Marta non ci si lasciava mai, no? Quindi era sempre presente, eravamo sempre legati, anche se lontani, no? Quando ci incontravamo eravamo sempre amici. Qualcuno ha detto, e chiudo, che è morta troppo giovane. Qui non sono d'accordo, perché ricordo le frasi di un poeta, Oden, che scrisse, lo dico in inglese: we are not ready to die, but we are already at this stage. Non siamo mai pronti a morire, ma siamo sempre sulla scena per. Okay? Ecco, Marta improvvisamente, no, è accaduta, può accadere sempre. Addio Marta. Io penso che possiamo concludere qui. Bogena, vieni. Sì, ciao. Io sono Bogena. La sua Colf, una parola che Marta non ha mai detto nei miei confronti. Io ero una sua amica, una di famiglia. Guardo questa bara con la scritta Marta Petrusevich e non mi sembra vero che siamo qui per salutarla. Io non c'ero quando è successo, ero in Polonia e sono ritornata prima. L'ho lasciata nelle buone mani perché è venuta Basia con Jędrek, c'era mio figlio. Però non ci aspettavamo questa fine, né io e né tutti voi. Ci siamo sentite martedì sera, stava bene. Perciò a sapere questa notizia non mi sembrava vero quando mio figlio me l'ha detto. Ha detto, ma vedi che zia Marta è morta, ha detto c'è l'ambulanza. Io ho detto, Giuse, ma che stai dicendo? Passami Basia che mi dice le cose come stanno. Perché non mi sembrava vero, come non sembra vero a tutti voi. Alcune persone che mi conoscevano mi hanno scritto chiedendomi se è vero quello che hanno letto. Tutti increduli alla notizia. Marta ancora aveva tante cose da fare. Io e lei volevamo fare ancora tante cose. Non riusciremo più a farlo, purtroppo. A me non mi sembra che Marta non c'è più. Per me, come se fosse partita per un viaggio, come faceva sempre. Lei e Franco separatamente, poi ritornavano dopo settimane, erano sempre a casa. Per me sarà così. Io pure se vedo questa casa vuota, che poi non è vuota, ci sono rimasti due gatti e un cane. E i familiari che sono presenti qua, i amici. E lei è stata, non lei, noi siamo fortunati di averla conosciuta. Di averla avuta come amica. Grazie. Sì. Volevo aggiungere ancora a nome dei familiari, degli amici che non ci sono qui e che non sono qui, un grande ringraziamento dal profondo del cuore a Elena Musolino per essere stata sempre a fianco a Marta nei momenti difficili e anche quando non c'era più. Grazie Elena. Grazie a tutti voi, io penso che Marta ci lascia da storica un insegnamento che è quello di preservare la memoria e ci lascia anche un'eredità importante. Sono state citate prima due progettualità che avremo il compito di portare avanti, che sono sicuramente Macondo e il Planetario, però anche la sua memoria ci insegna quella famosa parola da cui partivo all'inizio, cioè la comunità. Non disperdiamo la comunità intorno a Marta, che rimanga il suo pensiero, quel centro di gravità permanente che non è più nella sua fisicità, ma è sicuramente ancora in tutti noi. Grazie.